Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto di Blues Fires, il programma numero 78 che parte subito con una regina del blues contemporaneo, Queen Esther, blues e altro, una cantante un po' trasversale che comunque si esprime maggioritariamente attraverso il blues, una cantante dalle ottime capacità tecniche ma anche interpretative. Queen Esther ha realizzato un CD intitolato The Other Side, lei non solo canta ma suona anche la chitarra, e in questo pezzo che vi farò ascoltare stasera, intitolato Jet Airliner, scritto da Paul Pena, Queen Esther è alla voce con John Diaz alla chitarra, Ralph White e Mervyn Sewell sempre alle chitarre, uno alla chitarra ritmica, uno alla chitarra solista, e poi Naisha Walton al basso, Sir G. Earl Grice alla batteria. Buon ascolto quindi con Queen Esther in Jet Airliner. My heart. Bene, questa era la voce di Queen Esther, una grande cantante, una grande interprete che ho avuto il piacere negli anni di promuovere anche in Anima Jazz. Si tratta di una tra le più interessanti interpreti del momento, una professionista di grande esperienza, di grande forza. Il pezzo che ci siamo ascoltati era una composizione di Paul Penna intitolato Jet Airliner. E ricordo la formazione che vedeva Queen Esther alla voce, poi John Diaz alla chitarra, Ralph White alla chitarra ritmica, Marvin Sewell alla chitarra solista, Naisha Walton al basso e Sir E. L. Grice alla batteria. Bene, il nome del CD, il titolo del CD è The Other Side ed è uno dei CD più interessanti di Queen Esther, con tante composizioni originali. La maggior parte sono composizioni originali. Un CD, come dicevo prima, anche con altre espressioni, non solo quelle strettamente legate al blues, godibilissimo, con delle interpretazioni intense. Dopo Queen Esther ci andiamo ad ascoltare Mike Ferro and Town Sound, una formazione interessante. Mike Ferro ho già avuto il piacere di promuoverlo nei miei programmi, torna con questo nuovo CD che porta il nome della stessa formazione, Mike Ferro and Town Sound. Stasera da questo CD noi ci potremo ascoltare una composizione originale, tra l'altro il pezzo che apre l'album, What's My Name Doing in Your Mouth. Buon ascolto con Mike Ferro e Town Sound. Long, long time ago. You've been running your mouth all over the place, saying things you could never say to my face. What's my name doing in your mouth? Hey, I wanna know. Space to grow, so weak. You said you had to find yourself, you had to go. Huh? The truth be known, I give you too much slack. Don't ever even dream about coming back. What's my name doing in your mouth? Yeah, I wanna know. No. let's get on with our lives. E questa era la voce e la musica di Mike Ferro. Mike Ferro, che l'abbiamo potuto ascoltare in questa sua composizione originale intitolata What's My Name Doing Your Mouth, una sua composizione originale tratta dal CD che porta il nome della sua band, Mike Ferro and Town Sound. Un CD nel quale Mike Ferro si esprime anche con altri linguaggi. Questo è un po' lo specchio della contemporaneità. Ne parlavo proprio in questi giorni con altri appassionati musicali, del fatto che forse un tempo, quando si ascoltava un CD, c'era una connotazione più specifica, più precisa, di linguaggio, di stile. Ecco, a volte nei nostri tempi, non sto parlando solo di questi 2 o 3 anni, anche un pochino di più, ma insomma specialmente negli ultimi anni, noto che ci sono degli artisti che si presentano con CD estremamente vari. Sembrerebbe quasi una compilation di più artisti, da quanto a volte si discostino da un linguaggio che sembrerebbe quello portante, insomma quello più decisivo, insomma più rappresentativo dell'artista. E quindi anche in questo caso, nel caso di Mike Ferro, ci sono dei pezzi, per esempio country, ci sono dei pezzi che si per esempio questo che abbiamo ascoltato ammiccava un po' all'R&B, insomma ci sono vari linguaggi. È comunque un CD gradevole, sicuramente meritevole di attenzione. Mike Ferro and Town Sound. E adesso andiamo avanti con un artista che si presenta per la prima volta a differenza dei primi due che vi ho fatto ascoltare. Si chiama Dan Auerbach, ha pubblicato nel 2009 un CD intitolato Keep It Tied, dal quale noi potremo ascoltare una sua composizione originale intitolata Hair Broken in Disrepair. Buon ascolto quindi con Dan Auerbach e alla sua band. We'll be right back. Bene, questo era Dan Auerbach, cantante chitarrista, che nel 2009 ha realizzato questo CD intitolato Keep It Tied, dal quale noi ci siamo ascoltati una sua composizione originale intitolata Heartbroken in Disrepair. Un musicista che solitamente riesce a vivere un bel equilibrio tra le sue doti di cantante e quelle di chitarrista, e che riesce a creare delle ambientazioni con una certa personalità, con una certa individualità riconoscibile. Dote questa specialmente nel blues, che è una musica diciamo meno varia e meno complessa del jazz, per esempio, è un pochino più difficile trovare degli spunti di originalità. Ed ora proseguiamo il nostro percorso di scoperta musicale con Doug McLeod, un musicista già di un certo richiamo, di un certo nome, che proprio quest'anno ha realizzato un CD molto interessante che ho ascoltato con piacere. Doug Slide Guitar, questo è il titolo del CD, dal quale noi ci ascolteremo una composizione originale intitolata A Little Sin. Buon ascolto con Doug McLeod. Time you win. You gotta pay to play. Sometime you lose, sometime you win. You know you gambling man. Well, what you want is a little sin. Sure got me in trouble one more again. Oh, lonely, the whiskey, y'all. Got old Dallas in trouble one more again. You know I'm a gambling man. When what I need a little sin. If I roll the dice, we should find out where I've been. Oh, I roll the dice, we should find out where I've been. You rolling bone. Well, what you got to have is a little sin. Sometime you win. well, what you need and what you want. Cause you can't get nothing at home. Getting hard to get up in the morning. It's hard to go to work at night. You know things ain't right. It's a world of trouble you in. Cause what you want is just a little sin. E ci siamo ascoltati Doug McLeod, che dal CD che ha pubblicato proprio quest'anno, intitolato Doug Slide Guitar, ci siamo ascoltati una sua composizione originale intitolata A Little Sin. Doug McLeod, come avete potuto ascoltare, è un artista che vive con grande passione, con grande rispetto, con grande amore la tradizione. Quindi fa rivivere delle ambientazioni musicali che appartengono appunto alla storia del blues, e riesce a farlo con proprietà di linguaggio, con grande capacità tecnica e passione che mette in evidenza le sue doti espressive. Adesso, dopo Doug McLeod, è il momento di un'accoppiata interessante. Dave Forestfield e Jarkka Rissanen hanno realizzato proprio quest'anno un CD intitolato Songs Our Mama Taught Us, e da questo CD noi ci ascolteremo John the Revelator. Buon ascolto con Dave Forestfield e Jarkka Rissanen. Tell me who's there riding, John the Revelator. Tell me who's there riding, John the Revelator. Tell me who's there riding, John the Revelator of the Book of the Seven Seals. Tell me who's there riding, John the Revelator. Tell me who's there riding, John the Revelator. Tell me who's there riding, John the Revelator wrote a book of the seven seals. God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, but he refused to answer because he's naked and ashamed. Tell me who they're riding, John the Revelator. Tell me who's they're riding, John the Revelator. Tell me who they're riding, John the Revelator wrote the book of the seven seals. Tell me who's they're riding, John the Revelator. Tell me who's they're riding, John the Revelator. Tell me who's they're riding, John the Revelator wrote the book of the seven seals. Christ had 12 apostles, 3 he led away. He said, watch with me 1 hour till I go yonder and pray. Tell me who's there riding, John the Revelator. Tell me who's there riding, John the Revelator. Tell me who's there riding, John the Revelator wrote the book of the seven seals. Tell me who's there riding, John the Revelator. Tell me who's there riding, John the Revelator. Tell me who's there riding, John the Revelator wrote the book of the seven seals. Morning. Mary and Martha went down to see. He said, go tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's there riding John the Revelator. Tell me who's there riding John the Revelator. Tell me who they're riding. John the Revelator wrote the book of the seven seals. Tell me who's there riding John the Revelator. Tell me who's there riding John the Revelator. Tell me who's there riding John the Revelator wrote the book of the seven seals. Wrote the book of the seven seals. Wrote the book of the seven seals. Wrote the book of the seven seals. Bene, questo era un pezzo, una composizione originale intitolata John the Revelator, una composizione di Dave Forestfield e Jarkka Rissanen, una accoppiata tra musicista e cantante del Nord Europa, con Dave Forestfield, un americano che canta e suona la chitarra anche lui. Hanno creato questo duo. In effetti questo CD del 2015 ha la caratteristica, come nel caso precedente di Doug McLeod, di riproporre un'impostazione del blues tradizionale. Ci sono, questa è un'altra tendenza della cosiddetta contemporaneità, e cioè musicisti che riscoprono proprio le radici del blues e ripartono azzerando tutte le ricerche, tutte le sperimentazioni, tutti i linguaggi più moderni del blues, andando proprio alle radici per cercare sonorità e purezza del blues iniziale. Adesso, dopo Dave Forestfield e Jarkka Rissanen, ci andiamo ad ascoltare uno dei più grandi e prestigiosi rappresentanti del blues internazionale, Eric Clapton, che nel 2013 pubblicò un CD, tra l'altro anche un po' trasversale. Vi ho trovato delle belle interpretazioni anche di pezzi che fanno parte della tradizione jazz, reinterpretati chiaramente con un accento blues e in stile claptoniano. Il CD è intitolato Old Sack e noi ci ascolteremo Still Got the Blues. Buon ascolto con Eric Clapton e la sua band. Used to be so easy to give my heart away. I found out the hard way, it's a price I have to pay. I found then that love is no friend of mine. I should have known better time after time. It was so long, so long ago, but I still get the blues for you. It used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way, it's the road that leads to pain. I found then that love was more than just a game. 'Cause I was playing to win, but losing just the same. It was so long, so long ago, but I still get the blues for you. So many years since I'd seen your face. Here in my heart, there's an empty space where you used to be. Questo era il maestro, il grande Eric Clapton, che nel 2013 ha realizzato questo CD intitolato Old Sock, dal quale ci siamo ascoltati Still Got the Blues. Un bel CD dove ritroviamo il grande solito Eric Clapton, sicuramente con dei begli interventi vocali, degli ottimi interventi chitarristici. Mi permetto solo di fare un appunto al grande maestro, ma quando le cose sono volute si rispettano e basta, poi ognuno però può esprimere anche la propria opinione, penso. In questo caso forse un po' troppo, un po' troppa presenza di violini. Questi violini indolciscono in modo forse improprio questo blues, che di per sé comunque è carico, intenso, anche di dolcezza, eccetera. Però quella dolcezza dei violini in questo caso, secondo me, è un po' troppo mielosa e fuori luogo. E il CD purtroppo è un po' troppo impegnato da questa presenza dei violini, che secondo me proprio proprio poteva essere evitata. Non so per quale ragione Eric Clapton ha deciso di inserirli, però sporcano un pochino, appunto in senso troppo dolce, tutte le sue interpretazioni. Andiamo avanti con Guy Tortora, questo italoamericano che ha realizzato nel 2015 un bel CD intitolato Blues Man in a Boneyard, e noi ci potremo ascoltare una sua composizione originale intitolata What is the Soul of a Man? Buon ascolto quindi con Guy Tortora e la sua band. Gonna ask you a question. Answer if you can. Is there anybody's children can tell me what is the soul of a man? Well, I want somebody to tell me. Answer me. Children can tell me what is the soul of man. I've traveled to different countries, traveled to the furthest lands. Couldn't find nobody who could tell me what is the soul of a man. I saw a crowd standing, talking. You know I came up just in time. Was teaching the lawyers and the doctors that a man ain't nothing but his mind. Well, won't somebody to tell me? What is the soul of a man? Bible often, you know, I try to read it right. As far as I can understand, it ain't nothing but a burning light. When Christ taught in the temple, all the people, they stood amazed. Was teaching the lawyers and the doctors how to raise a man from the grave. Well, I want somebody to tell me. Answer me if you can. Is there anybody's children can tell me what is the soul? Soul of a man. Bene, questo era un pezzo di Guy Tortora intitolato What is the Soul of a Man, tratto dal CD Bluesman in a Boneyard, pubblicato proprio nel 2015. Guy Tortora ci ha fatto ascoltare questo blues in chiave jazzy, che ci riporta anche in questo caso alle tradizioni dei primi blues che ci possono portare alla memoria Billie Holiday e Betty Smith. Il CD è molto interessante, molto bello, appunto appassionato, sicuramente struggente, ci riporta in atmosfere del passato che sono sempre belle da poter rivivere quando, in questo caso soprattutto, gli autori, gli interpreti sono all'altezza della situazione e sanno far rivivere anche certe atmosfere con la loro bravura e con la loro sensibilità, con la loro passione per questo genere musicale. Adesso proseguiamo con Grinder Blues, un gruppo interessante, forte, che ha realizzato nel 2015 un CD che porta proprio il nome del gruppo, Grinder Blues, dal quale noi ci potremo ascoltare. Woke Up This Morning. Buon ascolto con il gruppo di Grinder Blues. Ah! my head. Questa era la musica del gruppo di Grinder Blues che ci hanno fatto ascoltare Woke Up This Morning, una loro composizione originale tratta dal CD pubblicato proprio quest'anno, intitolato con il nome del gruppo Grinder Blues. Un gruppo sicuramente interessante, con un valido cantante, con un bel timbro particolare, con delle belle individualità anche dal punto di vista strumentale. Un buon gruppo di blues rock. Dopo i Grinder Blues è il momento di Hans Teasing e Terry Evans, che proprio anche loro nel 2015 hanno realizzato un CD intitolato True and Blue, dal quale noi ci potremo ascoltare Vicksburg is My Home. Hans Teasing e Terry Evans, buon ascolto. Over Lake Michigan blow chilly and cold. The winds over Lake Michigan, I wanna tell y'all, they blow chilly and cold. Well, well, you see, I'm gonna leave Chicago, going back down south, you see, 'cause that's my home, y'all. Whoa. Thinks he's gonna get lucky tonight. Yeah, that's why he's playing. Hot stay sing. Yeah. listen. Now T is for Texas. T is for Tennessee. Have you ever been to Tennessee? Oh, I said T is for Texas, y'all. T is for Tennessee. Yeah. But you know what? V is for Vicksburg. Lord, that's home, sweet home. Bene, questi erano il duo di Hans Tesink e Terry Evans dal CD True and Blue. Noi ci siamo ascoltati Vicksburg is My Home, una loro composizione originale tratta appunto da questo CD pubblicato nel 2015. Una accoppiata vincente, con grande tensione ci hanno fatto viaggiare attraverso questa loro composizione. Bella proprietà di linguaggio, belli accordi musicali, bei fraseggi e bello l'intervento vocale, molto forte. E siamo arrivati in fondo la nostra trasmissione e chiudiamo con un ritorno al passato. Una grande cantante, Alberta Hunter, scomparsa nell'84, che nel 61 pubblicò questo CD, With Lovey Austin and Her Blues Serenaders. Alberta Hunter, che ci farà ascoltare, per chiudere in bellezza e in armonia con il grande passato, una sua interpretazione di St. Louis Blues. Buon ascolto con Alberta Hunter. I hate to see that evening sun go down. Yes, I hate to see that evening sun go down. Just because my baby had to leave this town. If I'm feeling tomorrow like I feel today, yes, feeling tomorrow like I feel today, I'm gonna pack my suitcase, make my getaway. Ah, to St. Louis I'm going with my diamond ring. Cause the women there pull their men around by the apron strings. Ah, if it wants the powder of that store-bought hair, say the man I love, he wouldn't have gone nowhere, nowhere. I got St. Louis blues, blue as I can be. Ah, talk to me. Say my man's got a heart like a rock cast in the sea. Or else he wouldn't have gone so far from me. Yes, I love my man like a schoolboy loves his pie. Just like a Kentucky colonel loves his Menton rye. I'm gonna love my man until the day I die. I say, did you ever wake up with the blues all around your bed? Did you ever wake up with the blues all around your bed, and you had nobody to hold your aching head. I'm gonna see you, baby, when your troubles are just like mine. I say it's just as sure as the stars and the sun shall shine. I'm gonna see you, baby, when your troubles are just like mine. Bene, questa era Alberta Hunter che chiude il nostro programma con questa bella interpretazione di St. Louis Blues, una cantante che ha vissuto quasi 90 anni, sempre in mezzo alla musica con grande passione, grande volontà e grande capacità interpretativa. Questo era un CD del 61, With Lovey Austin and Her Blues Serenaders, Alberta Hunter che appunto chiude questa 78esima puntata di Blues Fires. L'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.